America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. First on this move from China's securities regulator, they announced this on Weibo. Why are they suspending these circuit breakers? C'è stato un altro crollo della borsa cinese, c'è stata una ripercussione a catena su tutti i mercati mondiali. Ecco, la perdita del 7,3% dell'indice di borsa a Pechino è capitata nel mezzo della notte ora americana e quasi immediatamente, dopo appena 29 minuti di interscambio, per via dei circuit breakers, cioè degli interruttori automatici delle trattative, la borsa ha chiuso. La borsa cinese ha chiuso. I livelli di perdita erano troppo elevati, le autorità non se la sono sentita di andare avanti, i meccanismi automatici che interrompono queste vendite hanno sentenziato, anche in base a regole interne, che non si poteva più andare avanti. Ecco, queste regole oggi sono state cambiate, cioè la borsa resterà aperta per consentire magari anche un recupero, perché poi i mercati precipitano, ma poi recuperano, non è che cadono senza fine. Oddio, certo può succedere anche quello, ma non si dà un messaggio rassicurante nel momento in cui una borsa chiude per eccesso di perdita. Ed è da qui che abbiamo avuto le reazioni immediate sui mercati europei in apertura. Sentiamo. European shares fell sharply as trading began this morning, with Germany's DAX soon tumbling more. Ecco, le perdite sono diramate a catena dappertutto, dalla Cina all'Europa e poi dall'Europa agli Stati Uniti. Ma un po' tutti hanno perso, da Piazza Affari a Milano, a Londra, a Francoforte, a Parigi, tutte le borse hanno chiuso in perdita e dopodiché la palla è passata al New York Stock Exchange. Sentiamo. Avete sentito i rumori caotici che c'erano ieri mattina al New York Stock Exchange? La giornata, devo dire, a New York è stata più drammatica di quelle che abbiamo testimoniato in Europa, perché la perdita per il Dow Jones è stata del 2,3%, 392 punti, e siamo scesi a quota 16.514 per l'indice Dow Jones, quindi al di sotto, ben al di sotto di quella soglia psicologica di quota 17.000 che si sperava che non fosse superata. Perdite forti anche per l'S&P 500 che ha perso il 2,4%, perdite forti per il Nasdaq, un meno 3%, siamo a quota 4.689,43, mentre l'S&P 500 a quota 1.943,08. Ecco, che cosa è successo? Vorrei partire con un'analisi della giornata di ieri per gli Stati Uniti. Cioè, cosa è successo? Che all'inizio, la borsa americana ha cominciato a perdere un po' come tutte le borse. E dopodiché, nel corso della giornata, a un certo punto si perdeva l'1,2%, l'1%, sembrava che le perdite potessero rientrare. Dopodiché, nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, un'ondata di vendite è tornata per una riflessione nuova, cioè timori che l'economia americana possa essere in una fase calante. E da lì, si è andati avanti, le perdite a quel punto si sono allargate. You're talking about 5-6 times earnings, so I mean obviously they would attract. Ecco, ho voluto far ascoltare Jim Cramer. Jim Cramer è uno dei più, come dire, coloriti commentatori economici e finanziari della televisione americana, sempre molto aggressivo, non ha peli sulla lingua, dice che un titolo scenderà, che un altro salirà, dà consigli di vendita, insomma è abbastanza particolare, e chiaramente sulla Cina si è scatenato. Qui dice: ovviamente i cinesi non sanno gestire i loro mercati, ricordate che loro stanno giocando ad orecchio, e c'è da aspettarsi che continueranno a scendere i mercati cinesi e che continueranno a scendere di queste percentuali così spaventose. Io non mi fido di nulla quando si parla di Cina, non conosciamo i dati economici, non conosciamo bene quelli che siano gli indicatori del mercato, non c'è trasparenza finanziaria, e il punto è che non ci saranno rimbalzi perché poi fermano gli scambi e appena toccano di nuovo il 7% il mercato si blocca. Ecco, questa è la posizione di Jim Cramer, una posizione che ovviamente non tranquillizza l'investitore medio americano. Ma vediamo però nel contesto più generale che cosa è successo. Cercherò di darvi un po' un commento di insieme. Perché cosa è successo? Che dopo la prima incrinatura di lunedì scorso nel mercato cinese, c'è stato un segnale di stabilizzazione in arrivo dal mercato americano. Cioè la borsa a New York ha tenuto e poi ha chiuso addirittura un leggerissimo rialzo, più 0,06%, un rialzo impercettibile, però certamente non una perdita, un segnale di nervi saldi. E dunque la domanda di fondo che mi ponevo ieri dopo questa seconda caduta, preoccupante ovviamente, la borsa cinese, riguardava proprio il mercato americano, o meglio l'economia americana, cioè quanto potrà l'America svolgere un ruolo di stabilizzazione e, come dire, di decoupling dal possibile baratro cinese. E ieri la risposta, direi, è venuta chiarissima, ben poco, perché se all'inizio della settimana vi davo una risposta più ottimista, adesso devo essere costretto ad essere prudente, perché ci sono elementi nell'economia americana che ci anticipano alcune difficoltà. Attenzione, è la prima volta che parliamo di difficoltà concrete nell'economia americana, e sono elementi che peraltro non potremo confermare se non nelle prossime settimane, quindi sono gli elementi ancora di incertezza. I due punti principali di cui abbiamo preso atto soprattutto ieri, in questa seconda parte della giornata di ieri, riguardano una debolezza del settore manifatturiero e una possibile ripresa dell'inflazione. Oibò, direte voi, ma come l'inflazione? Devo dire che persino i commentatori americani che sentivo ieri sera dicevano: ma no, sull'inflazione siamo tranquilli, c'è un messaggio da parte della Federal Reserve che rassicura sull'inflazione. In realtà cominciano a esserci dei problemi anche sull'inflazione. Ecco, questo è un quadro di fondo. Attenzione, come vi dicevo, non c'è ancora nulla di preciso, però sono elementi che ieri sono stati sufficienti ad alimentare in alcuni sentimenti recessivi, quantomeno nel manifatturiero americano. Il problema per il manifatturiero americano, voglio dire, ci sono degli indici precisi, c'è l'indice ISM, che è l'indice del settore manifatturiero, e che ci ha indicato, per esempio, un forte accumulo di scorte di magazzino, molto al di sopra delle medie storiche. Poi c'è stata una piccola diminuzione nelle settimane scorse, però di fatto è già il secondo mese che si registrano scorte di magazzino al di sopra della media. E dunque la domanda è normale: si tratta di un accumulo temporaneo o di un accumulo strutturale? Ecco, e qui interviene la Cina, perché è vero che l'America ha le spalle larghe, dovremmo immaginare una solidità di fondo, e io credo che ci sia una solidità di fondo del sistema americano, certamente non paragonabile a quella debolezza che abbiamo avuto nel periodo 2007-2009. Però ci sono molti elementi. Partiamo dall'Apple. L'Apple vende il 15% della sua produzione in Cina. Se dovesse esserci un blocco dell'economia cinese, per l'Apple ci saranno sicuramente dei problemi. Ora, Tim Cook ha cercato di rassicurare, ha detto che loro questi problemi non li vedono perché in Cina continuano a vendere benissimo. Ma al di là di Apple c'è un discorso più generale, c'è un indebolimento dello yuan che ormai è in corso, non avvantaggerà certo le esportazioni americane, in particolare in quel settore manifatturiero che aveva trovato nella Cina un ottimo sbocco. E dunque, guardando in avanti, con un dollaro che dovrebbe rafforzarsi, anche per gli Stati Uniti potrebbero esserci prospettive di indebolimento sia delle esportazioni che di conseguenza soprattutto nel settore manifatturiero, che si era ripreso piuttosto bene, che aveva contribuito con centinaia di migliaia di posti di lavoro alla ripresa dell'economia. Vi dicevo, questi dati li conosceremo soltanto fra poco, però in un mercato nervoso come quello di questi giorni arriva la matita blu e la matita rossa e si fanno dei grossi segnali sotto. Ecco, arriviamo all'inflazione. Ecco, quello che mi preoccupa un pochino è anche questo disconnect tra Federal Reserve e alcuni economisti con cui ho parlato, economisti molto affidabili, mi viene in mente per esempio Allen Sanay di Economic Decisions, perché da una parte la Fed continua a dire che l'inflazione non se ne parla e dall'altra alcuni analisti economici, per esempio Decisions Economics, rivelano pressioni al rialzo sul tasso core. Che cos'è il tasso core? È quel tasso centrale che misura gli aumenti dei prezzi, cioè dei beni comuni, e non include per esempio i prezzi energetici, perché so già che qualcuno di voi penserà: ma che stai a dire? Che sta a dire Platero? Il prezzo del petrolio è ai livelli minimi e chiaramente i prezzi energetici influenzano sull'inflazione. Sì, è vero, però c'è l'indice core e se ci sono delle dinamiche, qui entreremmo in questioni troppo tecniche per cui le bypasso, ma se ci sono delle dinamiche che cominciano a mostrare un'accumulazione di inflazione, allora la Fed dovrebbe cominciare a stringere ancora di più. Forse non soltanto i quattro interventi di cui ha parlato di nuovo Stanley Fischer appena qualche giorno fa, forse ci vorranno più interventi. E tutto questo capita quando? Quando l'economia si sta indebolendo. Insomma, anche sul fronte americano non ci troviamo in questo momento in una situazione allegra. Ecco, questo per dire che da una parte resto ancora ottimista sulle condizioni economiche americane. Diciamo che l'economia dovrebbe crescere intorno al 2%, ma il tasso di crescita è fra l'1,5% e il 2%, il 2% dicevo per i primi sei mesi di quest'anno. Però non sono livelli alti, sono livelli vulnerabili, sono livelli fragili. E dunque, per chiudere il cerchio, puntare sull'America per una stabilizzazione dei mercati forse oggi non è consigliabile. Prima dovremmo avere delle certezze su certi sviluppi macroeconomici che oggi non sembrano essere molto rassicuranti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Oggi l'America avrebbe festeggiato, pensate, l'81esimo compleanno di chi? Di Elvis Presley, nato l'8 gennaio del 1935 a Tupelo, in Mississippi. E dunque abbiamo parlato di incertezze, di borsa, di perdite, e vorrei proporvi oggi una canzone fantastica di Elvis Presley, celebrando quello che sarebbe stato il suo compleanno, Money, Honey, Danaro e Miele. You know the landlord ring my front door bell, I let it ring for a long, long spell. I went to the window, I peeped through the blind, and I asked him to tell me what was on his mind. He said, money, honey, money, honey, money, honey, if you want to get along with me. Well, I screamed and I hollered, I was so hard pressed, I called the woman that I loved the best. I finally got my baby about 3:30. She said, I'd like to know what you want with me. I said, money, honey, money, honey, money, honey, if you want to get along with me. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!